Buonasera a tutti, io sono Vincenzo Pira, volontario dal 1976, ho passato 8 anni in Brasile e ho continuato da allora a seguire vicende e avvenimenti che ci sono stati. Siamo qui per attualizzare un poco e accompagnare una campagna internazionale che il Comitato Garibaldi, composto da brasiliani che vivono in Italia ed amici brasiliani e amici italiani interessatissimi a quello che sta succedendo in Brasile, organizzano periodicamente qua nella Fondazione Basso, che da sempre segue questi avvenimenti. E qui con noi anche, e saluto caramente il dottor Salvatore Senese, parlamentare, primo presidente dell'associazione Lelio Basso e presidente del tribunale Russell 2 sulla denuncia dei misfatti e di tutto il non rispetto dei diritti umani che dal 1964 in poi il Brasile ha subito. Occasione anche di presentare il libro curato dal professor Roberto Vecchi con una postfazione di Donato Di Santo, segretario generale dell'ILA ed ex sottosegretario agli esteri di uno dei governi italiani, che riporta in questo libro due momenti fondamentali di Lula: il discorso che aveva fatto nel 2003 nel terzo forum mondiale sociale a Porto Alegre e l'articolo del perché mi vogliono condannare. Ieri sono state 5 ore a Curitiba di interrogatorio per la prima volta di Lula, che ha risposto e si è autodifeso, e anche di questo parleremo, di quello che è successo in Brasile, che è successo a Curitiba e quali saranno i passi successivi. E un confronto poi con voi su domande o su considerazioni, concluderemo verso le 8, credo, un po' prima. E dando possibilità al professore di rientrare anche a Bologna con l'ultimo treno, e do la parola a lei, professore, per la presentazione del libro e per alcune considerazioni, e poi chiederemo a Luis Dulci di intervenire dal Brasile. Grazie. Bene, innanzitutto buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui. Devo dire che è la prima volta che torno alla Fondazione Basso dopo la morte di Linda Bimbi, che è avvenuta 9 mesi fa, e quindi l'emozione è grande. Ma come diceva Monica prima, evidentemente lo spirito di Linda è in questa presentazione. Due parole molto brevi per spiegare il progetto che abbiamo realizzato. Io non sono l'autore di questo libro, l'autore del libro, i due testi che sono inseriti in questo volume sono del presidente Lula. Ringrazio molto l'Istituto Lula, che ha reso possibile, con la concessione dei diritti per la pubblicazione, l'organizzazione e la cura di questo libro. È un libro che ha avuto una genesi abbastanza particolare, nel senso che nasce soprattutto dalla percezione remota che abbiamo dei fatti che avvengono in Brasile. Io devo dire che chi non ha la possibilità di attingere le informazioni direttamente dalla rete e direttamente in portoghese, ma credo che in questo contesto tutti abbiano accesso alle informazioni in lingua portoghese, hanno una percezione molto distorta di quanto sta avvenendo in Brasile, perché tutto viene divulgato in una specie di grande grumo che non consente di capire criticamente quello che sta avvenendo. I due scritti, almeno una versione dei due scritti che accompagnano i due testi di Lula, sono stati più o meno pensati intorno a settembre-ottobre, quando era cominciata a circolare la notizia che c'era una minaccia di arresto per il presidente Lula, e quindi questo fece scattare soprattutto nel blog di Donato Di Santo, dedicato all'America Latina, una mobilitazione di alcune persone che intervennero scrivendo per quale motivo era importante sostenere Lula in questo momento. Poi il progetto ha preso una forma, quindi diciamo l'embrione di questo volume nasce in quel periodo, e per collocarlo storicamente, perché credo sia importante. ossia l'idea nasce nelle settimane immediatamente successive alla deposizione della Presidente Dilma Rousseff il 31 agosto, e in quel clima molto difficile, qualcuno lo ricorderà, era l'epoca in cui l'allora Ministro della Giustizia dai palchi elettorali era in corso le campagne per le elezioni amministrative di ottobre, dai palchi elettorali venivano annunciati gli arresti appunto nell'azione di repressione della corruzione. Quindi era un momento molto, molto buio. Il progetto poi dopo ha preso una forma più o meno intorno a gennaio, quando l'editore, che pure ringrazio, l'editore Castelvecchi, ha individuato in questa collana, che è una collana interessante perché è una collana di pensatori, è stato praticamente subito dopo la morte di Bauman, che è un autore di questa collana, che si chiama Irruzioni, è un nome anche questo interessante. In quei giorni appunto l'editor di Castelvecchi ci disse: ma perché non facciamo un'irruzione dedicata al presidente Lula? E quindi l'idea fu quella di creare uno strumento che finalmente potesse dar conto anche ad un pubblico laico, non informato di quanto accade in Brasile, anche di alcune fonti di prima mano, di fonti non mediate, ma fonti di prima mano. La prima idea che è venuta è stata proprio quella di valorizzare un articolo molto importante, che è quello eponimo, quello che dà il nome poi dopo a questo volumetto. È un articolo pubblicato in Brasile, ma su molti giornali, anche europei, penso per esempio a El País, che si intitola proprio "Perché mi vogliono condannare". È un articolo molto bello, è un articolo in cui sostanzialmente, come vedrete nel volume, si dice che in verità sul banco degli accusati non c'è Lula, non c'è l'ex presidente del Brasile, ma c'è un progetto politico. C'è un progetto politico che è quello veramente che viene posto sotto accusa in questi mesi. È un articolo bello, ma è un articolo amaro. È un articolo amaro perché si percepisce un senso malinconico dinanzi ad una realtà che non sembra avere la forma che probabilmente si sperava avesse dopo numerosi anni, dopo 13 anni di governo PT in Brasile. E allora quello che abbiamo pensato con l'editore è stato quello di affiancare a questo testo importante, perché è un testo che squarcia in un qualche modo un velo di silenzio o di deformazione dei fatti in Brasile, di affiancare a questo testo un testo che, soprattutto se qualcuno ricorderà quei mesi iniziali della prima presidenza, del primo governo Lula, l'entusiasmo era enorme. E questo discorso, il discorso che il presidente Lula il 24 gennaio del 2003 pronunciò a Porto Alegre proprio in chiusura del terzo forum sociale mondiale, è un discorso bellissimo, un discorso che molto spesso abbiamo utilizzato anche noi brasilianisti, perché è un discorso che in un qualche modo va letto in un contrappunto tra questo discorso e il discorso che immediatamente successivamente, qualche giorno dopo, il presidente Lula pronuncia a Davos, proprio, come dire, mostrando come il Brasile sia coi movimenti sociali e sia anche però al tavolo delle economie più sviluppate del mondo. Esiste questa dualità fondamentale che caratterizza il Brasile. Ecco, quindi si tratta di un testo importante ed è un testo che ci sembra ancora oggi che suoni come un manifesto. Se rileggiamo oggi quel discorso, vediamo che ha costituito questo discorso davvero una stella polare per i due mandati della presidenza Lula e per l'eredità che poi dopo ha lasciato alla presidente Dilma Rousseff. Quindi ci sembrava bello non chiuderci, diciamo, in un clima cupo, difficile, anche amaro se vogliamo, ma mostrare questi due momenti. I due momenti, peraltro, credo sia un po' l'effetto involontario di questo libretto, di questo volumetto, creano una specie di immagine dialettica, di immagine doppia. E credo che questa immagine sia un'immagine rappresentativa dei 15 anni di storia, dei quasi 15 anni di storia che il Brasile ha attraversato. 15 anni di storia dove emerge però un filo rosso importante, che è quello dell'impegno sociale per rendere il Brasile un paese meno ingiusto. E questo tema della giustizia è un tema che attraversa sia questo testo, che era un testo evidentemente come dire, pieno di auspici. Ancora non si sapeva come sarebbe stato il governo, ancora non si sapeva quale sarebbe stato lo spazio per promuovere politiche sociali in un contesto politico così difficile, così veramente difficilissimo, come poi dopo anche i fatti più recenti hanno mostrato. E quindi c'era una tensione utopica straordinaria in questo discorso di Porto Alegre del 2003. E però col contrappeso, non già di una abdicazione all'impegno sociale, ma una revisione, diciamo, sul presente immediatamente successiva alla deposizione della Presidente Dilma. Quindi sono due immagini che insieme, sono immagini molto belle. Irruzione è una parola di Walter Benjamin, la collana si ispira a questo grande pensatore, e l'immagine dialettica, questa immagine doppia, è un'immagine sempre di Walter Benjamin. Quindi ci sembrava bello che il testo, che i due testi potessero funzionare in questo modo. Per questo l'introduzione, in cui sostanzialmente cerchiamo di dare anche a un pubblico che non necessariamente è informato della realtà brasiliana, non la segue con passione, anche da qui non sa scegliere anche le fonti diciamo meno viziate, che consentono di formarsi un'opinione su quello che sta accadendo in Brasile, l'abbiamo chiamato punti estremi. Punti estremi perché sono due discorsi molto lontani tra loro, tenuti insieme però da questa professione di fede per una giustizia sociale da costruire che rappresenta ancora un orizzonte per un progetto politico, e che quindi io credo siano due momenti che in un qualche modo diano conto bene, diciamo, di quello che è il presente, un presente difficile, ma dietro cui c'è questa tensione ideale, questa tensione politica così grande. Per questo il volumetto è un volumetto, non è soltanto un'operazione editoriale, ma io credo vada visto soprattutto per quello che è, cioè un atto politico. È un atto politico che spero contribuisca a farci capire meglio quello che sta succedendo oggi in Brasile. Grazie. Proprio un mese fa, l'11 di aprile del 2017, nella Camera dei Deputati c'erano i due avvocati difensori di Lula, e il professor Luigi Ferraioli ha fatto un intervento commentando il processo, intervento che è stato trascritto, e ve ne leggo alcune parti che sono molto significative per una prima valutazione. Che io mi sono visto le 5 ore di filmati che si trovano in YouTube dell'interrogatorio che ieri Lula ha dato a Curitiba, confermano pienamente l'analisi che il professor Ferraioli fa. In questo processo, al di là delle singole violazioni, la diffusione, la pubblicazione delle intercettazioni promossa dallo stesso giudice istruttore dai tratti, diciamo, tipici dell'Inquisizione. Direi che questi tratti sono tre. Il primo carattere dell'Inquisizione è la confusione fra accusa e giudizio. Noi abbiamo in questo processo, ma temo non si tratti soltanto di questo processo, ma di un difetto istituzionale dell'ordinamento processuale brasiliano, la figura del giudice istruttore che al tempo stesso raccoglie le prove e giudica, ma con una perversione specifica rispetto al vecchio giudice istruttore italiano, perché questo giudice è al tempo stesso il giudice che giudica in primo grado. E qui ci troviamo di fronte a un venir meno della garanzia elementare del dibattimento, della terzietà del giudice, del carattere terzo del giudice, che rende possibile quel giudizio di lotta come il nemico di cui parlava l'avvocato Teixeira, e ci ricorda appunto la figura del giudice inquisitore descritta da Beccaria. Il secondo tratto che ci viene mostrato dalle poche notizie che pure abbiamo da parte di critici di questo processo e soprattutto adesso dalle relazioni degli avvocati difensori è un tratto che riguarda l'epistemologia del giudizio. Che cosa significa inquisizione? Significa che lo strumento logico che viene dato è la petizione di principio. Si tratta da un'assunta accusatoria, cioè l'ipotesi accusatoria che in un processo degno di questo nome deve essere sottoposto a prove ed esposto a controprove e a confutazioni. Il terzo tratto, quello più impressionante che sta provocando questa demonizzazione pubblica di Lula, è la spettacolarizzazione del processo. Il fatto che il giudice Moro e i pubblici ministeri vadano in televisione a parlare di questo processo, promuovano delle conferenze stampa in cui accusano fuori dalla sede processuale il loro imputato, costruiscono in altre parole la figura del nemico e naturalmente tutto questo non può che comportare una, diciamo, deformazione dell'acquisizione della verità. La principale vittima per l'appunto di questo processo, in quanto, ed è stato teorizzato ciò che ricordava Dario Ippolito, viene capovolta la fonte di legittimazione della giurisdizione, che non è più l'accertamento della verità e la soggezione del giudice, ma è il consenso dell'opinione pubblica. Parole che Sergio Moro ha detto puntualmente anche in pubbliche riunioni, dicendo solo con l'opinione pubblica questo processo può avere successo. E oggi ha dimostrato che non aveva prove, ma soltanto illazioni, testimonianze molto spesso confutate e date per false, e che quindi veramente pone in discussione l'esistenza ancora in questo processo dei diritti fondamentali dello Stato del diritto in Brasile. E su questo sentiamo Luiz Dulci. Escutou tudo? Si sente? Sì. Tutto bene? Sì. No, prima di tutto vorrei salutare tutti gli amici presenti questa sera alla Fondazione Lélio e Leslie Basso. Un saluto speciale a Ruth e Monica, dell'equipe della Fondazione. E vorrei anche ricordare la nostra carissima amica Linda Bindi, che credo che 9 mesi fa, abbiamo perso, ci ha lasciato. Salutare Roberto Verti, Vincenzo Pira, credo che Ettore Finanzi Agro sia tra di voi, sì. Grandi studiosi della cultura, della società, della politica brasiliana, e il senatore Salvatore Senesi e tutti i brasiliani. Vorrei salutare menzionando Clarice e Paola, che amiche nostre. Sono molto soddisfatto di stare con voi questa sera, anche se sono un analfabeto digitale e allora non mi muovo così bene con queste cose di Skype, no? Ma ieri siamo stati a Curitiba. Un primo aspetto che deve essere menzionato è che c'erano 2 manifestazioni in Curitiba, una con decine di migliaia di persone, i calcoli sono variabili, però non meno di 30.000 persone di tutto il paese si manifestando in difesa di Lula e del sistema democratico brasiliano e tal. E forse 50 persone, 40, 30, nel luogo dove dovrebbe avere i manifestanti contro di Lula, come la stampa ha previsto. No? Non abbiamo visto in Curitiba 2 manifestazioni. Solo una a favore di Lula e della democrazia, perché i supposti previsti manifestanti della destra brasiliana o in difesa dell'operazione cosiddetta Lava Jato non hanno comparito, non c'era niente. 30 o 40, al massimo 50 persone. Non, anche perché già negli ultimi mesi la destra brasiliana non va più in piazza, non si sente più in condizione di sostenere le sue posizioni in piazza. Questo è un primo fatto. Il secondo è che durante 5 ore, come Vincenzo ha detto, e Roberto anche, è stato condotto l'interrogatorio, diciamo così, italiano, sì. dal giudice Moro e dal pubblico ministero. E in queste 5 ore non è stata presentata nessuna prova dell'accusa, né la minima prova indiretta, indiziale, niente. La unica cosa che è stata detta è una delazione cosiddetta premiata di una persona che era stata condannata già 20 anni di prigione e che facendo delazione e menzionando Lula poteva uscire dalla prigione con 6 mesi e con la metà del denaro rubato. Nessuna prova, neanche una prova indiretta. Nada. E Lula ha chiesto durante l'interrogatorio sempre isso: ma dove? Qual è la prova? Qual è l'evidenza? Qual è la base materiale di questa accusa? E questa volta il giudice non ha detto così espressamente, ma mesi, 3 o 4 mesi fa, il giudice Moro aveva detto in un programma di televisione, quando domandato, ci sono prove contro di Lula? E il giudice aveva detto, no, non ci sono prove, ma io ho la convinzione che Lula sia colpato. E 4 mesi dopo, un momento già formale del confronto dei due, non ha presentato durante 5 ore niente, né la più remota prova indiretta che fosse. E Lula ha chiesto per diverse volte, ha sottolineato il bisogno. Gli avvocati di Lula hanno detto che, ma il pubblico ministero, il giudice non si sentirono o non si considerarono con la responsabilità di presentare prove. Dopo, parlando la concentrazione popolare, Lula ha detto che considera che quello che c'è contro di lui è una persecuzione, perché non ha le caratteristiche minime, basiche del processo penale nel sistema democratico. E questo il professore Ferraioli, Vincenzo, ha dimostrato, ha letto il testo del professore Ferraioli, che dice anche così. Gli avvocati di Lula hanno detto che questo processo è un esempio del chiamato lawfare, di una strategia deliberata di una parte del potere giudiziario che si muove per motivi di partito, di posizione politica e non per ragioni strettamente giuridiche, contro di Lula. Non ci sono le premesse minime per un processo giuridicamente valido in un sistema democratico. Per ultimo vorrei dire che quando è cominciata quasi tre anni fa l'operazione Lava Jato condotta dal giudice Moro, la società brasiliana in sua maggioranza vedeva con buoni occhi la investigazione di denunce di corruzione e aveva speranze che, sopra questo processo, ma poco a poco l'opinione pubblica cambia e tutti i sondaggi danno sempre di più che la popolazione considera che diciamo l'operazione Lava Jato ha perso il suo fuoco, ha perso la sua finalità strettamente giuridica, ha perso il senso di investigare, di pulire la corruzione e ha diventato sempre di più un'operazione politica, purtroppo, perché sarebbe importante per il Brasile una vera investigazione condotta dentro della legge e senza, diciamo, selettività, investigando tutti i partiti, tutte le denunce, ma la popolazione negli ultimi sondaggi già ha una quasi metà della popolazione, e due anni fa erano 15%, adesso sono 48% che pensa che l'operazione Lava Jato ha perso il suo fuoco, non è più giuridicamente fondamentata e ha come suo principale obiettivo condannare Lula e non, perché Lula non sia candidato alle elezioni presidenziali del 2018. Ieri Lula ha detto al giudice e al pubblico ministero, tra virgolette, io non pensavo di essere candidato, ho 71 anni, pensavo che un altro compagno o compagna, un'altra compagna dovesse essere candidata, ma adesso voglio essere candidato, voglio parlare con la società brasiliana, voglio difendere il nostro legato di lotta per la giustizia sociale, voglio spiegare quello che non mi permettono di spiegare la televisione, per esempio, ad esempio. Il mio punto di vista, accompagnando tutto sua testimonianza, è che è stato chiaro, diretto, ha risposto tutto quello che è stato domandato e è questa anche l'opinione, leggendo oggi quasi tutti i giornali brasiliani, anche dei commentaristi più conservatori, che considerano che il giudice e il pubblico ministero erano di mani vuote, non avevano prove, non avevano evidenze, e Lula è diventato, molti criticano il giudice dicendo che Lula ha vinto, che Lula è riuscito a presentarsi come una vittima di questo lawfare. Grazie. Quello che sta succedendo in Italia è che quello che avviene anche in Brasile, le posizioni di Lula e le posizioni gravi che stanno succedendo in questo processo non vengono evidenziate dalla stampa, non se ne parla in televisione. Facendo un confronto con l'interesse che c'era negli anni 60, 70 e 80 anche, quando c'erano partiti internazionalisti più forti che denunciavano e mobilitavano e che informavano in Italia, oggi questo non avviene. E questa è una cosa grave, e penso che anche la proposta di utilizzare quegli strumenti nel web per creare una solidarietà e un'informazione corretta, perché quello che sta succedendo in Brasile riguarda tutti quanti noi. Cioè uno Stato di diritto messo in discussione, 200 milioni di abitanti che corrono il rischio di tornare indietro di 50-60 anni in condizioni che credevano superate per sempre, creano delle domande e ci devono inquietare come cittadini per fare qualcosa, informare, divulgare, fare propaganda anche dell'esistenza di questo libro, perché pone veramente un problema di fondo, e creare quella rete solidale di una campagna che si è tentato di fare anche con il primo evento l'11 di aprile alla Camera dei Deputati, dove anche c'erano più gente, ma che gli eventi diventino dei processi, diventi veramente una continuità di denuncia e di informazione che crei una rete solidale. Anche nell'ambito della cooperazione internazionale, l'America Latina e il Brasile stanno diventando marginali. Le grandi emergenze dell'Africa e del Medio Oriente, con le guerre più vicine, fanno dimenticare drammi che stanno diventando molto, molto complessi e difficili. Non parliamo della situazione del Venezuela, non parliamo della situazione dell'Argentina e di altre parti. Quindi credo che qui sia il momento in cui possiamo riflettere anche come organizzarci e come rilanciare queste denunce, questa informazione, e con quali mezzi poterlo fare. Se posso, posso dire qualcosa brevissimamente, poi credo sia giusto che anche il pubblico intervenga. Devo dire, e soprattutto l'occasione di avere Luis Dulci qui è molto interessante, devo dire che c'è in questo momento, secondo me, un elemento importante da segnalare, cioè da una parte la crisi politica che sta attraversando il Brasile evoca le immagini di un Brasile storico, cioè di un Brasile che riemerge dopo appunto una quindicina d'anni in cui pensavamo che il Brasile si fosse trasformato sostanzialmente. Quello che vediamo invece è che le élite ritornano, riconquistano con mezzi illegittimi la scena politica, e lo fanno con strumenti tradizionali. Io credo che la violenza e l'accanimento della persecuzione, perché questo è il termine esatto che giustamente Dulci ha usato, della persecuzione contro Lula e contro il PT, ferma restando che questa non è una rivendicazione di immunità, ma è semplicemente la richiesta di un giudizio normale, quindi dell'applicazione semplicemente delle regole dello Stato di diritto. Ecco, questo evoca Brasile del passato. Quindi un primo elemento che secondo me va sottolineato è questa riemersione di un Brasile dove il nemico semplicemente non lo confina fuori dalla scena politica come sta avvenendo, ma vuole cancellarlo. È quello che si chiama la damnatio memoriae, proprio vuole cancellarlo e vuole escluderlo dalla storia futura di questo paese. Primo elemento. Secondo elemento invece è un'ansia che riguarda il futuro. Quello che è in gioco non è soltanto il destino della sinistra brasiliana e il futuro politico di un grande leader come Lula, non è soltanto questo, ma credo che ci sia in gioco una partita molto più complessa, che è quella della democrazia in Brasile. Quello che sta succedendo è molto grave, perché fa capire che l'istituzione democratica, che è un'istituzione giovane e che ha creato, io credo, anche per effetto poi dopo della dittatura militare, una sua aura positiva nel corso di questi 40 anni, rischia invece, proprio per le torsioni e gli strappi che stanno avvenendo in questo momento sulla scena storica, come diceva Vincenzo, di regredire. E in gioco, in questa lacerazione del tessuto democratico, non ci sono soltanto, diciamo così, i primi attori della scena nazionale politica, c'è soprattutto, o c'è insieme con loro, anche una messa in discussione di diritti che la giovane democrazia brasiliana aveva fissato come principi fondamentali. Il fatto che siano in discussione oggi diritti fondamentali come tutele del mondo del lavoro non è soltanto il segno di una sovversione, peraltro illegittima, del processo politico, ma il segno veramente che quello che si cerca è un superamento di una democrazia come quella che si è creata a partire dalla Costituzione dell'88. Quindi c'è da una parte un Brasile noto, dall'altro c'è il profilo di un Brasile molto cupo, che è quello che si definisce. Diamo allora la parola a voi, sia per domande sia per considerazioni. Se venite qui al microfono, così sente bene anche Luis Dulci. Prego. Forse anche mi vede. Claudio Bernabucci. Ciao Luis. Ma in primo luogo dove sei? Nell'Istituto Lula o a casa tua? Io adesso? Sì. No, all'Istituto Lula non è possibile perché un altro giudice... Appunto. Ora, io vi invito a mettere molto in evidenza questo fatto, che forse accanto all'interrogatorio può apparire secondario, ma per la, come dire, mentalità, coscienza europea occidentale in genere, si tratta di un fatto gravissimo, ovvero sia un giudice da Brasilia che non ha competenza territoriale su San Paolo dà ordine e la polizia esegue la chiusura materiale di un istituto per il sospetto che là dentro si stesse operando in funzione anti-operação Lava Jato. Questo, io ho fatto pochi esami di diritto, ma credo senza ombra di dubbio che si possa configurare come un gravissimo attentato alla libertà di opinione e alla libertà di associazione, che sono due cardini della democrazia moderna. Questo, per esempio, qua sta passando purtroppo sotto silenzio. Però, fatta questa considerazione preliminare, scusa se ti prendo troppo tempo, io avrei due domande e poi alcune considerazioni mie per quanto riguarda il nostro possibile ruolo e ciò che dall'Italia e dall'Europa si può fare in sostegno alla vostra causa. Le due domande sono le seguenti. Secondo così la maniera nostra usuale di pensare, dopo diciamo la fase di indagine che si è realizzata lunghissima negli scorsi mesi, alla luce di questo interrogatorio esisterebbero nella stampa nostra tutte le condizioni per poter chiedere, benissimo, a questo punto il giudice archivi l'indagine perché non ha elementi per continuare. Si sta parlando in Brasile di richiesta di archiviazione, punto e basta, perché questa è un'esigenza, come dire, democratica essenziale. Prima domanda. Seconda domanda. Visto che però tutto quello che sta succedendo in Brasile, un golpe con altri mezzi che non quelli militari, una guerra civile, con una contrapposizione violentissima tra fazioni, che è anch'essa una guerra civile non combattuta con le armi, ma sì certamente con il livore e l'odio profondo che divide il paese. Ecco, alla luce di tutto questo, si sta discutendo in Brasile, esistono le condizioni, mi viene un termine semplice, per una sorta di amnistia. Qui si tratta, a mio modestissimo avviso, così come abbiamo avuto noi una guerra civile combattuta in Italia, che un capo comunista a un certo punto, ministro della giustizia, propone lui l'amnistia tra fascisti ed antifascisti, perché altrimenti il paese sarebbe continuato a divenire ingovernabile anche acquisita, diciamo, la formale democrazia. Ecco, qui si tratta di amnistia da caixa dois, non tem jeito. Una fase della storia brasiliana è stata caratterizzata da questo malcostume, ormai è sotto il ripudio di tutti, credo con la volontà di andare ad un superamento. Ebbene, il sistema politico, sociale, economico non può continuare se qui non si risolve a livello strategico il problema. Allora, forse è l'ignoranza dei fatti, il fatto di non vivere più lì e di non conoscere più da vicino, ma esiste la possibilità di una sorta di patto nazionale o amnistia, come l'ho chiamata io? Io ho dimenticato di salutare i compagni del Curitiba Garibaldi, le domande di Bernabucci sono importantissime, perché vediamo se riesco a rispondere, perché la situazione brasiliana è molto complessa, no? Ma prima di questo sarebbe forse utile, anche se tutti voi conoscono bene la situazione brasiliana, ma individuare un po'. L'interrogatorio di ieri era sobre un processo tra gli altri, no? Sobre il cosiddetto triplex, appartamento, come si dice in italiano? Sì, appartamento. Sì. Bene, Lula non è stato mai proprietario di questo appartamento. Era contribuente di una cooperativa, un corte, con sua moglie Marisa, e poteva scegliere un appartamento tra Centinaia di altri. E quando è andato a visitare questo appartamento, non gli è piaciuto. Gli ha detto: no, non vorrei, non lo voglio. Durante anni, l'azienda proprietaria di questo appartamento ha presentato annunci, come si dice, in giornale, no? Per vendere l'appartamento. E sempre ha dichiarato questo appartamento come proprietà sua, dell'azienda, come parte dei suoi attivi. Il giudice sa che Lula non ha voluto, poteva avere comprato, aveva il diritto, ma non ha mai voluto comprare, non le ha piaciuto l'appartamento, anche perché aveva una scala interna molto stretta. E Lula ha 71 anni, 71, Marisa, che era viva ancora, aveva 68. Sarebbe anche rischioso per persone già con un'età più avanzata vivere in un appartamento in queste condizioni. Tutti sanno che Lula ha rifiutato di quella partita. Nessuno in Brasile affirma che Lula ha voluto comprare, no. Ha visitato, non ha voluto comprare, ha detto che non serviva, che per persone anziane non era adeguato. Ma questo non fa parte di Lula. Perché il giudice ha una teoria. La teoria che ha tutto a vedere con quello che Lucia ha detto è che il cartello di aziende che manipolava, non so se c'è questa parola italiana, gli appalti di Petrobras, no? E il cartello faceva negozi con il Presidente della Repubblica. E Petrobras è un'azienda che ha 51% di capitale pubblico, 49% di capitale in borsa, anche nella borsa di New York, che ha direzione autonoma, consiglio di amministrazione autonomo, è arrivato ad avere 380.000 dipendenti, ha tanti negozi in diverse parti del mondo, è una azienda tra 150 aziende pubbliche brasiliane. È chiaro, per tutti. Il primo a dire questo è stato il presidente, ex presidente Fernando Henrique Cardoso, che ha detto: il presidente della Repubblica no. Anche se volesse sapere tutto, non potrebbe. Quello che succede all'interno di cada impresa, azienda, pubblica e tutto. Ma è perché la finanziazione irregolare dei partiti politici in Brasile, che è una malattia del sistema politico brasiliano, di tutti i partiti, non è trattata per gli investigatori come quello che è finanziazione irregolare del partito. È trattata così quando si riferisce ai partiti di destra, però quando si riferisce al PT è trattata come se fosse una organizzazione criminosa, a virgolette. Questo che sta scritto nei documenti del giudice, del pubblico ministero, come se fosse un'organizzazione criminosa che si è appossato, che ha preso l'Stato per fare profitti, guadagni. E tutti in Brasile sanno che non è così. E la finanziazione irregolare è finanziazione irregolare. Come purtroppo c'è, esiste in tutti i paesi democratici del mondo, Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, è un problema, una difficoltà di come finanziare il sistema politico. E nel caso brasiliano più difficile ancora, perché la legge prevedeva fino a un anno fa che la finanziazione delle elezioni era privata, era aziendale, non c'era finanziamento pubblico per le elezioni in Brasile. Adesso il Tribunale Superiore, la Corte Costituzionale, ha deciso che non può avere finanziamento aziendale. Come non c'è finanziamento pubblico, come si finanzia in Brasile le elezioni? La ultima elezione municipale in São Paulo, la città più grande del paese, il candidato vincitore, che è un imprenditore molto ricco, ha investito i suoi propri soldi, almeno dice così, e ha fatto una campagna ricca, con molti recursi. E gli altri hanno fatto pochissime recursi, perché... Allora la questione di Bernabucci è una questione che ha tutto il senso. Non è un problema solo del PT. Adesso il principale leader, il governatore di São Paulo, l'ex governatore di Minas Gerais, Aécio Neves, che è stato candidato alla Presidenza della Repubblica, tutti denunciati la finanziazione irregolare di campagna. Si prevale una visione che non è la finanziazione irregolare, ma organizzazione mafiosa. Non solo il sistema politico brasiliano sarà colpito, ma il paese non riuscirà a riformare il sistema politico. L'opportunità per riformare la politica c'è. C'è anche un desiderio della maggioranza della popolazione di una riforma della politica, non solo delle elezioni, ma della politica, un altro modello, no? Ma questo si dovrebbe fare tra le forze politiche, sinistra, centro e destra, no? Ma sì, perché a parte del pubblico ministero, il proprio giudice Moro, loro hanno una visione manicheistica della vita politica. La politica è il male, e dicono questo, una parte di loro, anche per ispirazione religiosa. Possono essere trasposte in modo artificiale, e dicono: la negoziazione politica è in se stessa un male. Qualsiasi mediazione è se stessa e guadagno. Quando in Parlamento le forze politiche fanno mediazione, loro dietro questa mediazione c'è un interesse illicito. Loro hanno una visione, a mio avviso, non democratica della vita politica. una visione non democratica della politica in sé stessa. Qualsiasi politico sarebbe sempre diciamo frutto di motivazione principale. Tutto ha interessi, interessi liceo, e solo a poi politica per valori, per funzione, per sia valori conservati. Quindi questa possibile pacificazione del paese è molto difficile in questo contesto. Nella sfera politica, in mia opinione, non tanto. Già, ad esempio, l'ex presidente Fernando Henrique Cardoso ha detto che questa, io parlo di un avversario nostro, no? Ha detto che il Brasile non sarà capace di superare questa crisi politica, che non è solo politica, perché è una crisi anche economica, e una crisi di legittimità. Negli ultimi sondaggi, l'attuale presidente Temer non arriva a 6% di appoggio. 90% della popolazione dice che il Brasile è o sta nel rumo e la direzione è sbagliata. La direzione che il paese segue sarebbe una direzione sbagliata. Una grande maggioranza di quelli che hanno appoggiato l'impeachment, appoggiato la politica golpista, adesso davanti alle misure concrete delle pensioni, delle regole del lavoro, il disimpiego, come si dice? Disoccupazione. La disoccupazione che cresce sempre, le piccole e medie aziende che soffrono tanto, tanta gente che non è favorevole al PT, che non è di sinistra, e forse non lo sarà mai, pensa che l'impeachment, il colpo di Stato, ha peggiorato la situazione del paese e non migliorato come si annunciava. Ma questa situazione non sarà superata senza mediazione, senza un nuovo patto democratico per il paese, anche per l'elezione del 2018, perché l'unico leader che rimane con un appoggio, forte appoggio popolare in tutti i sondaggi, è lui. Gli altri non hanno. Però ci sono altre forze politiche nel paese, ci sono altre idee politiche, che devono presentarsi anche. Il paese deve avere il diritto di scegliere. Ma io volevo anche dire una cosa. La Chiesa Cattolica, che come tutti voi sapete ha una importanza molto grande nel paese e nel Brasile, la Chiesa ha cambiato posizione. È rimasta durante almeno 2 anni in un'attitudine molto, molto, se mi permetto il termine, quasi di omissione davanti alla situazione del paese. Negli ultimi 6 mesi la Conferenza Nazionale dei Vescovi si è manifestata ufficialmente contro la riforma delle pensioni nel modo proposto, contro la riforma dei diritti dei lavoratori, contro la violenza che ha colpito gli indios, contro la violenza che colpisce i lavoratori rurali, contro la manipolazione di alcuni settori del pubblico ministero, del potere giudiziario. Le chiese evangeliche, si dice? Sì. Le chiese evangeliche storiche, luterani, battisti, avventisti, calvinisti, si hanno manifestato contro la riforma delle pensioni pubblicamente, con note scritte, contro le fame, contro l'attacco ai diritti dei lavoratori, contro la distruzione dei avanzi civilizzatori. E di questo che si tratta. Roberto Vecchia ha detto, no? Non sono solo conquiste del PT, e non sono solo conquiste del periodo del PT, sono avanzi della democrazia brasiliana in questi ultimi 30 anni. E sono cose della Costituzione dell'anno 88, approvate quando il PT aveva un piccolo gruppo parlamentare, approvato con l'appoggio del vecchio PMDB di centro, che era un partito veramente di centro, non era di sinistra, ma non era neanche di reazionario, no? Sono conquisti che il paese ha avuto in funzione anche della mobilitazione sociale, intellettuale, religiosa, democratica, della società civile, e tutto questo rischia in questo momento di sparire, perché non avendo la legittimità e non avendo appoggio popolare, il governo teme fugge in avanti, come si dice. Non riesce a coordinare un negoziato con la società. In mia opinione, c'è la possibilità, io credo, ma perché la società possa fare un nuovo patto democratico in Brasile che garantisca le elezioni di 2018, con una nuova legge elettorale, con una legge che impedisca la finanziazione irregolare, ma garantisca qualche tipo di finanziazione, no? Un paese di questa dimensione, di questa popolazione. Questo deve essere pactuato. E questo só si può fare se il potere giudiziario e il pubblico ministero, con la libertà di fare il suo lavoro, se loro cambiano posizione. In questo momento un giudice del primo istanza, sì, primo grado, fa critiche pubbliche a un ministro della Corte Suprema nella televisione. La Corte Suprema prende una decisione e i responsabili dell'operazione Lava Jato criticano pubblicamente, anche attribuendo motivazione illecita. Allora il potere giudiziario, soprattutto il pubblico ministero, devono tornare al suo ruolo, e la politica deve guidare la costruzione di un nuovo patto. Quello che per noi, del PT, delle altre organizzazioni di sinistra, non significa un'amnistia generale. Chi ha responsabilità deve pagare. Chi ha commesso atti illegali deve pagare per i suoi atti illegali. La cosa è che Lula, le accuse a Lula sono accuse false. Suo avvocato era presentato al Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite un dossier che dimostra 8 illegalità commesse contro di Lula, non necessariamente contro tutti i nostri compagni. Se uno compagno nostro in una determinata situazione ha commesso un errore di finanziazione, e questo è un atto illecito, le investigazioni devono marciare. Noi non stiamo chiedendo, sì. Non stiamo chiedendo nessuna attitudine di favoreggimento, no. È che con Lula non ha nessuna prova che Lula abbia parlato una sola palavra con un imprenditore. Lula sempre, io ho accompagnato Lula fino all'anno 79 del secolo scorso, in tutte le sue campagne. Lula sempre ha detto: un candidato non può parlare con un imprenditore sopra campagna. parlo con imprenditori sotto il Brasile, sobre il mondo dell'imprenditoria, sobre inversioni, sobre la macroeconomia necessaria per il paese, sobre politica industriale, eh? Ma non parlo sobre campagna e molto meno sobre collaborazione materiale a campagna. Grazie. Ma si deve essere punito, vogliono fare una sorta di tavola rasa del sistema, sì, politico brasiliano. È chiaro. Se qualcun altro del pubblico vuole intervenire, chiedere. Prego, professore. Oi Luis, in primo luogo parabens per il tuo italiano, miglioro molto, se fa un italiano perfetto, che meraviglioso. Dunque, io credo, cioè, è una cosa su cui rifletto da qualche tempo in realtà, cioè che in realtà l'equivoco della situazione e della ricezione italiana della situazione brasiliana e la lettura che poi in Brasile viene fatta dell'operazione Lava Jato nasce da questa confusione, che a mio parere è assolutamente censurabile, tra l'operazione Lava Jato e l'operazione di Mani Pulite. Io sono intervenuto in qualche blog brasiliano cercando in qualche modo di chiarire che in realtà le due operazioni non possono essere assimilate. Mi sono guadagnato ovviamente una serie di insulti, ma questo è un altro paio di maniche. Io credo che, insomma, bisognerebbe anche sul piano diciamo ideologico cercare, e sul piano giuridico evidentemente, cercare di manifestare questa distanza che esiste tra appunto il sistema giuridico che portò appunto al fenomeno di Mani Pulite e poi l'operazione Lava Jato. C'è in qualche modo una sorta di malinteso che transita attraverso i giornali italiani, per esempio, e che ho spesso riscontrato anche nei giornali brasiliani. Cioè, trattare un fenomeno come quello che ha portato per esempio all'impeachment di Dilma come una sorta di, come dire, articolazione brasiliana dell'operazione Mani Pulite è assolutamente folle. Cioè, bisogna in qualche modo chiarire che sia sul piano giuridico, sia sul piano pratico, sia sul piano ideologico si tratta di operazioni completamente diverse. Che hanno avuto sviluppi diversi, hanno avuto esiti completamente diversi. Forse questo, come dire, vorrei avere la tua opinione su questo. Cioè, tu vedi una relazione possibile tra l'operazione Lava Jato e l'operazione Mani Pulite, se effettivamente tu hai una conoscenza, noi tutti l'abbiamo vissuta, insomma, l'operazione Mani Pulite. E sappiamo di che cosa si è trattato. Lava Jato non ha nulla a che vedere con questo. Nelle 5 ore di interrogatorio a Lula, sia Sergio Moro sia il procuratore Enrique Possobon tentavano comunque di fargli dire che non poteva non sapere. Cioè, ho pensato veramente che era quello che si diceva anche a tanti responsabili di Mani Pulite: non può non sapere, perché lui era il capo, perché lui era il presidente che comandava tutti quanti, quindi qualcuno ha fatto delle malefatte, perché corruzione in Petrobras c'è stata, e lui non poteva non sapere. E tutta la ricerca di prove, di domande, andavano nel cercare delle incoerenze o delle risposte su cui potersi poi aggrappare per dire: vedi, stai mentendo, vedi, sei colpevole. Non la ricerca della verità, ma la ricerca di una colpevolezza, e che si rivolgeva più che al processo, all'opinione pubblica. Che dici, Luis? Sì, non so se sarò capace di fare un commento sobre la collocazione del professore Ettore Agro, che come grande studioso di Guimarães Rosa sa che il diavolo dalle sue arti, no? Ma forse sarebbe importante partire da una cosa: i primi delatori che hanno parlato tanti anni fa, le sue dichiarazioni hanno dato origine all'operazione Lava Jato, dichiararono pubblicamente nella commissione d'inchiesta della Camera dei Deputati e anche avanti al giudice, al pubblico ministero, che il cartello per manipolare gli appalti in la Petrobras ha cominciato nell'anno 1998, pertanto all'inizio del secondo mandato dell'ex presidente Fernando Henrique nella presidenza della Repubblica. 98. Cosa dovrebbe fare un'equipe responsabile di investigazione? Investigare la denuncia di 98 in avanti. No, Lava Jato non ha fatto così. Ha nascosto il periodo dell'ex presidente Fernando Henrique, non ha domandato ai delatori dove erano manipolati gli appalti, in che direttoria dell'azienda, se aveva rapporto con i partiti di governo in quell'occasione, niente. Ha semplicemente finto di non aver sentito la denuncia e ha cominciato a investigare dall'inizio del governo Lula 5 anni dopo. È vero che oggi, con i dati disponibili, si può verificare che la corruzione in Petrobras ha cominciato molto prima del PT e purtroppo ha continuato dopo. Il nostro governo non è stato capace di eliminare, anche perché non si sapeva della dimensione del progetto. Fernando Henrique ha detto anche, hanno domandato a Fernando Henrique: presidente, lei non sapeva? E Fernando Henrique ha detto: un presidente della Repubblica solo sa quando la informazione arriva a lei. Se la informazione che c'è qualche problema non arriva, non sa. E Lula ieri ha detto al giudice Moro, quando domandato: lei sapeva? Lula ha detto: no, io non sapevo. Lei, giudice, non sapeva. La Polizia Federale non sapeva. Il Pubblico Ministero non sapeva. La stampa non sapeva. Nadie sapeva prima della denuncia. Come si potrebbe sapere? No. Non solo Lula non sapeva, gli altri anche non sapevano. Allora non si tratta di una tesi, Lula non sapeva, no. È perché è impossibile. È una impossibilità pratica per un essere umano di sapere una cosa di questo modo. Io volevo dire a tutti voi che il PT, né, i partiti di sinistra che sono alleati nostri, noi sappiamo che c'è una responsabilità anche della sinistra nella crisi politica brasiliana, non nella crisi sociale, perché i risultati sociali del nostro periodo sono risultati importantissimi. Adesso il governo Temer colpisce duramente. E la crisi politica, sì, abbiamo avuto difficoltà di mantenere una maggioranza in Parlamento, anche per la proliferazione di partiti in Brasile, 30 e tanti partiti, senza fedeltà nessuna. La maggioranza dei partiti sono partiti di negozi, di interessi, e non di proposte, di visione del paese. E per questo siamo disposti a costruire una uscita per il paese. Una uscita che, in nostra opinione, passa necessariamente per la recuperazione della legittimità democratica. Un governo come questo, con 6% di approvazione e 90% di rifiuto, che non ha un programma proprio, che è completamente ostaggio, completamente ostaggio della banca e della stampa di destra, e dei determinati settori internazionali che vogliono approfittare della fragilità dell'attuale governo, della sua mancanza di legittimità, per cambiare tutto che si possa cambiare di un punto di vista del neoliberalismo, puro e duro più. E loro vogliono fare cose che neanche Fernando Henrique Cardoso, eletto pelo voto popolare, con un programma liberístico, ha avuto il coraggio di fare. E quanto più debole il governo attuale, peggio, perché solo si mantiene con l'appoggio dei settori di capitale finanziario, eccetera, e della stampa conservatrice. Allora si comincia a parlare molto in Brasile della anticipazione delle elezioni presidenziali, anche se l'attuale presidente della Camera dei Deputati comincia allo stesso tempo a parlare di una elezione presidenziale soltanto in 2020. Non c'è, Lula ha detto ieri, non è che l'unica possibilità è lui. No, il Brasile ha un'economia che può riprendere anche in tempo corto, ha una società con molta cosa importante, ma adesso non c'è leadership. Il governo non è capace di guidare il paese. Non c'è una leadership imprenditoriale con una visione abrangente, integradora. Ci sono, vado a raccontare una cosa aneddotica, scusate, io ho trovato 3 deputati della mia regione, Minas Gerais, pochi giorni fa all'aeroporto di São Paulo. Tutti e 3 di partiti conservatori della base parlamentare del presidente Temer. Eravamo, prendevamo un caffè nell'aeroporto, e tutti e 3 mi hanno detto: non vanno a dichiarare questo, ma stanno, ma mi hanno detto che in modo come le cose marciano, forse entro 3 o 4 mesi il paese scoprirà che senza Lula non è possibile superare questa crisi. I settori meno duri delle forze conservatrici potranno volere parlare con lui. Loro sono deputati moderatissimi, ma però capiscono le sue basi elettorali. Il paese adesso è orfano di leadership politica. 2 anni fa potrebbe essere che la maggioranza della popolazione considerasse il pubblico ministero, il giudice Moro, come un'alternativa per la guida del paese. Adesso no. Adesso comincia a avere una sorta di preoccupazione di nuovo nella sfera politica. Chi guiderà questo paese? Chi porterà di nuovo il paese nel binario, diciamo, della normalità? Claudio, che tengo che preguntarti altra cosa. Rapido, Luis. Dopo questo interrogatorio, voi ritenete che esistano le condizioni perché Lula esca dal paese e venga in Europa? Nonostante i nostri paesi europei siano in una situazione molto difficile di ripiegamento, gli inglesi e i tedeschi votano fra poco, noi siamo in campagna preelettorale, ogni giorno sbarcano migliaia di profughi e di immigrati in Sicilia. Ciò nonostante, è evidente che la presenza di Lula potrebbe dare una inversione, potrebbe imprimere un'inversione all'attenzione europea verso il Brasile, senza parlare delle Nazioni Unite, insomma, cioè Lula che vada a New York e non ci mandi solo gli avvocati. È possibile? Prima io vorrei ricordare il Papa Francesco, che quando ha informato il governo brasiliano che non veniva più dal Brasile, il Papa Francesco ha fatto una cosa che mi sembra abbastanza rara, ha dato un giudizio sulla situazione brasiliana attuale, di un modo molto elegante, come proprio della sua personalità, del suo stile, ha detto che il Brasile oggi sta subordinato agli interessi dei mercati. Parole del Papa Francesco. Non ha detto io non vado per questo, ha detto non posso andare, però due frasi dopo ha detto che gli interessi della popolazione del Brasile è colpito perché il paese sta sempre di più subordinato agli interessi dei poveri. Non si potrebbe dire di meno. In verità noi non abbiamo propriamente un governo. È gente con scarsa capacità di guidare il paese e chi è lì sostenuta dai poteri forti del paese, e il settore meno, il settore più equilibrato dei poteri forti è un poco ostaggio della struttura di destra. Perché ci sono imprenditori che vedono che la cosa non va, ci sono imprenditori che pensano, come un esempio in più, la riforma dei diritti dei lavoratori. Il ministro del lavoro ha detto che si approverà una clausola che i lavoratori potranno lavorare senza salario, soltanto con moradia e comida. Casa e vitto e alloggio. Casa e alloggio e vitto, mangiare e avere una casa. Questo è un retrocesso. Io non voglio fare retorica fuori di, ma è un retrocesso. C'è una cosa della situazione brasiliana, di un paese di 4 secoli di storia. Un viaggio di Lula è prevedibile in Europa nel prossimo periodo? Io dico del Papa Francesco perché a me piacerebbe molto, ad esempio, un incontro di Lula con il Papa. Questo è un altro tema. Io credo di sì. Giuridicamente Lula deve comunicare al giudice Moro se viaggerà in Europa o America Latina, ma ha fatto qualche viaggio e non ha avuto problema di nessun tipo. E io penso che questo sarebbe un momento migliore per un viaggio di Lula che, ad esempio, 4 o 5 mesi fa. Perché le cose diventano più chiare. La partitarizzazione, la politicizzazione dell'attuazione della baciata è più evidente anche per la popolazione brasiliana. L'attitudine ieri del giudice di Moro già tradiva un po' questa percezione. Loro avevano detto: no, non è un confronto, non è un duello di cittadini, è un procedimento regolare, cercava di abbassare un po' le tensioni. Anche loro pensano di una posizione come questa, ad esempio, del professore Ferraioli, che è uno dei più grandi penalisti del mondo. Tutte le facoltà di diritto in Brasile, gli studenti di diritto studiano nel libro dei professori Ferraioli. E lo stesso vale per tutti i paesi democratici del mondo, no? Então, allora in Germania, succede un po' così, in Inghilterra sarebbe il momento migliore. Il Lula adesso è più interessato. E vi ci ha detto che io volevo prima di una cosa, dire. Stringiamo perché il tempo stringe. Che ci abbiamo i bambini che ci aspettano a casa. Io posso andare, posso lasciarli anche qui. Luis, perdonami, però a proposito del viaggio in Italia in particolare, un capo di Stato che viene a Roma e non è ricevuto dal Papa è considerato naturalmente che faccia una missione di Stato di seconda categoria. Però io vorrei ricordare con molta modestia che oggi Lula non è capo di Stato e mettendomi nei panni del Papa Francesco che adoriamo, obiettivamente incontrare Lula potrebbe significare un grande imbarazzo, perché magari lui potrebbe anche simpatizzare, ma incontrando Lula egli sa benissimo che si alienerebbe la simpatia di una gran parte. No, allora per dire, per cortesia, organizza presto questo viaggio e che la visita al Papa non sia, come dire, una condizio sine qua non. Ognuno di noi attiverà i canali che può e magari se non è il Papa qualche bravo cardinale lo troviamo. Ci vediamo presto, ci vediamo presto. Certo. La situazione di incertezza è la tale che all'inizio del processo il procuratore ha detto, è uscito per stampa, che ci fosse il pericolo di arresto di Lula durante l'interrogatorio. Dice: voglio dirle che questo non avverrà, perché non è nelle previsioni delle cose. Però la tensione c'è. Io darei la parola a lei, professor Vecchi, per delle conclusioni, un po' per un rilancio di continuità della discussione. No, io credo sia stato molto interessante questo dibattito, anche per i temi che ha sollevato. Credo che io personalmente sono pessimista sull'esito di questo processo, perché è molto difficile che un sistema riesca a smentire se stesso in modo così categorico. C'è però una variabile, che è la variabile secondo me determinante, e che un sistema può smentire se stesso se c'è una forte pressione popolare. Quindi io credo che questo sia un processo così anomalo, così intossicato da tutto quello che si diceva, il cui esito è prevedibile, se vogliamo, proprio per lo scempio delle regole che già in queste prime fasi del dibattimento si può cogliere, e però ci può essere una variabile imprevedibile. Questa variabile imprevedibile è politica, ossia la capacità di mobilitazione che c'è stata e che può crescere. Da quello che diceva Luis Dulci, credo che usciamo questa sera con una speranza ancora più forte. Ecco, io credo che questa variabile può determinare un cambiamento di tesi, perché questo è un processo a tesi, la tesi già è prevista. La variabile e fare in modo che lo stesso sistema non riesca ad arrivare a questa tesi con i mezzi che ci sono e che la politica consente. L'altro aspetto è la solidarietà internazionale e la che pressione a tutti i livelli che deve essere mobilitata dalle Nazioni Unite, ma anche dal mondo politico europeo che ha un ruolo su questo. Ultima palabra, Luis, vamos a fechar. Sì, la solidarietà internazionale è importantissima. Per questo il libro è una bella iniziativa, perché può informare un po' per gli interessati fuori del Brasile, in Italia, ma anche una ripercussione qui. Tutta questa situazione d'Europa, Brexit, no? Elezioni francese, eccetera. Adesso l'interesse dell'opinione pubblica brasiliana, anche della gente semplice, è crescente. E Trump, i brasiliani sanno che il mondo conta molto, anche per i nostri problemi interni. No? E l'altra cosa è che la mobilitazione dell'opinione democratica internazionale, dei giuristi, tutto, influisce nel sentimento e nell'attitudine pratica anche dei giudici brasiliani. Senza nessuna pressione diretta, niente, ma influisce. Abbiamo adesso nella Suprema Corte ministri che studiarono i testi del professor Ferraiolo. Sanno che cosa significa che un uomo che non ha nessun interesse personale del Brasile, che potrebbe stare a parte, quando parla per valore, parla per difesa della democrazia. La pressione popolare cresce e la sinistra abbastanza unita, questo è molto importante in Brasile, sinistra sociale, sinistra politica, cresce anche. La destra, dal punto di vista della mobilitazione, sta in difensiva. Non esce più nella strada, non va più alla piazza. E dal punto di vista del Parlamento non tanto, però la resistenza alle riforme di pensione, eccetera, ha creato una qualche dialettica importante. Allora io credo, le difficoltà sono tantissime, io credo che la situazione oggi è migliore che 6 mesi fa. Oggi non si può risolvere la crisi brasiliana senza le forze progressiste. A 6 mesi fa loro pensavano che sì, che riuscirebbero a distruggere il PT e a distruggere Lula. Adesso non credo che i giudici forse, ma i poteri forti del paese non più. No? Io vorrei ringraziare molto a tutti voi per l'impegno per il Brasile, l'affetto, il companheirismo, la casa editrice, la Cristina, che non so se che ha parlato con me in quell'occasione, Donato, che adesso ha un incarico istituzionale, no? Donato di Santo, e tutti voi per la importantissima solidarietà con, non soltanto con noi, soprattutto con il paese, con i brasiliani e le brasiliane. Grazie anche a te. Un'ultimissima cosa, ringraziando la Fondazione Basso e il Comitato Garibaldi, se l'intervento, devo chiedere al professor Ferraioli, può essere tradotto in portoghese, fatto circolare, è un intervento molto importante, una riflessione di una persona riconosciuta che divulgarlo. Tante grazie a tutti quanti, alla prossima. Muito obrigado, até outra vez. Felicidades.